Eccoci qua con Lorenzo Balbi, 2024 è un inizio, quindi va da sé che ci esercitiamo anche per poi portare i contenuti in conferenza stampa. È sempre un'ottima occasione trasformarsi da direttore artistico a redattore per Radio Città Fujiko. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno William. Sì, il warm up, dai, il consueto warm up con Radio Città Fujiko prima della conferenza stampa. Come cominciamo questa nuova edizione? Edizione celebrativa, direi, quest'anno, 2024. La 12ª edizione di Art City, la 7ª che ho l'onore di dirigere, quindi insomma sono numeri che dimostrano anche un po' l'evoluzione, se vogliamo, di questo progetto, che è diventato veramente un modello anche per le altre città in Italia, non solo. Quest'anno, dicevo, edizione celebrativa perché ci sono due importanti anniversari. Il primo certamente il 50esimo anniversario di Arte Fiera, è 50esimo anno, la fiera più longeva d'Italia, una delle fiere più longeve del mondo, e quest'anno ci apprestiamo a celebrare degnamente, anche un orgoglio un po' cittadino per tutto il sistema dell'arte in Italia. E sull'onda lunga dei 50 anni di Arte Fiera, quest'anno abbiamo deciso di dedicare Art City a Giorgio Morandi, in occasione del 60esimo anniversario della scomparsa, e celebrando quello che per molti è il primo artista contemporaneo. Quindi quale occasione migliore di Art City per celebrare sicuramente l'artista più importante nella storia della città, uno dei protagonisti dell'arte del Novecento in Italia, in tutto il mondo, e farlo attraverso i linguaggi del contemporaneo. Quindi, come al solito, il nostro approccio anche come Museo Morandi non è tanto quello, sì, di far vedere le opere di Morandi, farle conoscere, ma soprattutto far vedere come l'insegnamento di Morandi sia ancora vivo e foriero di grande ispirazione per le nuove generazioni di artisti. Quindi il programma di Art City quest'anno è un programma diverso dal solito. Abbiamo deciso di non focalizzarci su un unico progetto speciale, ma di spacchettare il progetto speciale in 5 eventi che costelleranno appunto la settimana di Art City, in cui 5 artisti contemporanei, italiani, stranieri, grandi maestri o magari artisti più emergenti, rileggono l'eredità morandiana attraverso il loro linguaggio, attraverso il loro medium di riferimento. Sto parlando di Virgilio Sieni, che ha creato per Art City una nuova performance che sarà visibile dal pubblico nella platea del teatro comunale, del vecchio teatro comunale, attualmente in ristrutturazione, quindi aperto per l'occasione. Sto parlando di Joël Meyerowitz e Mary Ellen Bartley, due importanti fotografi internazionali che con le loro immagini rileggono i luoghi, gli oggetti di Morandi, i suoi libri, con due importanti mostre al Museo Morandi e alle collezioni comunali d'arte antica di Palazzo d'Accursio, di Tassita Din, una vera superstar dell'arte contemporanea internazionale, che ha indagato in un bellissimo film le carte su cui Morandi disponeva i suoi oggetti tenendone traccia, quindi una nuova geografia possibile delle nature morte morandiane fatta su queste mappe, rivisitate in pellicola 16 mm da Tassita Din in un nuovo spazio, Spazio Pietro, in Palazzo Tanari, in pieno centro di Bologna. Come al solito Art City vuole aprire anche luoghi al pubblico, anche se non sono luoghi sempre noti oppure celebrati tra i luoghi dell'arte contemporanea canonici. Art City cerca di aprire anche a tutti gratuitamente per il periodo del festival dei luoghi di nuova contemporaneità. E ultimo ma non ultimo, Mark Vernon a Grizzana Morandi, un sound artist scozzese con la curatela di Xing, invitato a riflettere sui suoni derivati dai luoghi, dalle parole di Morandi nell'unica intervista arrivata fino a noi che riporta la sua voce, e soprattutto dei vuoti e dei pieni dei suoi oggetti che sono stati campionati dall'artista e verranno riproposti in tracce sonore e anche in una live performance domenica 4 febbraio. E quindi abbiamo parlato di ricorrenza, contenuti di questo gigante dell'arte di cui abbiamo appunto una vicinanza particolare, ma direi che è veramente universale. Passiamo a qualche novità che vuoi aggiungere? Io ho parlato del fatto che in passato, no, dicevamo Art City è una chiamata alle arti, sì. No? Usavamo questo slogan perché tutta la città rispondesse a questo invito ad aprire le porte, a far vedere che c'è un sistema vivo, propulsivo, di persone che lavorano tutto l'anno con l'arte e per l'arte contemporanea. Devo dire che dopo 7 edizioni si è un po' ribaltato il sistema e la città che chiama Art City ormai, ed è questo è veramente un nostro orgoglio, perché sono più di 250 le richieste di inserimento di eventi all'interno all'interno del palinsesto di Art City, che è un numero veramente eccezionale, e quindi si può assolutamente dire che ormai Art City è un'entità autonoma, è un festival che coinvolge tutte le realtà pubbliche, private, istituzionali, no profit, emergenti o più antiche di servizio nella città di Bologna. Quindi devo dire che quest'anno riusciamo veramente a fare una mappatura che ha un'unicità totale nella città di Bologna. E come al solito l'invito è quello, sì, certo, per gli addetti ai lavori, per quelli che vanno alla fiera, di stupirsi, trovare opere d'arte in luoghi che magari non avrebbero messo nel loro calendario, ma soprattutto l'invito, come al solito, è quello al pubblico, anche non addetto ai lavori, di semplici curiosi che durante la settimana di Art City, durante il weekend, anche andando a fare la spesa o facendo la solita passeggiata domenicale, incapperanno in luoghi magari non conosciuti, magari che riescono a visitare per la prima volta e che riusciranno a interpretare grazie ai linguaggi dell'arte contemporanea. A nome di Radio Città Fujiko, un caloroso grazie. Grazie a voi e buon Art City a tutti.